sbagli, se ti lasci andare, se trattieni il pianto, se fai l'amore, se compri un cane, sbagli sempre tutto. L'ho sentito mille volte da chi ignora che io sbaglio volentieri il tempo della mia ragione. Con un miracolo seguo l'istinto, mentre spengo il fumo di una sigaretta, mi ritrovo acceso tra rullante e cassa. Come fai, sbagli? Come fai, sbagli? Ma tu come fai? Con le tue idee di cartone. Facile togliere il fiato a chi sa parlare, è il teorema omologato del disfare che non conosce amore. Sbaglio se mi leggo al dito quella tua tagliente punta di disprezzo. L'amore non apprezzo, sorrido e resto, resto qui a sbagliare. Come fai, sbagli? Come fai, sbagli? Ma tu come fai? A vivere con le tue idee di cartone. Le tue mani si legano, le mie mani sognano. Come fai, sbagli? Come fai, sbagli? Ma tu come fai a vivere con le tue idee di cartone? Sorrido e resto qui a sbagliare, è la mia libertà. Sorrido e resto qui a cantare, portando a spasso l'anima. Tu pensi troppo e non ti perdi, non rischi mai. Tu giochi con lo sguardo assente, hai un futuro ma non hai un presente. La vita è tutta qua, la vita è tutta qua, la vita è tutta qua.